Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza dal 1977, libera da padroni e pubblicità. La voce dei senza voce, la radio di chi se la sente. E chi se la sente può contribuire a farla vivere, ad esempio sottoscrivendo sul numero di conto corrente postale 6180-4001, da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volsci 56, 00185 Roma. Oppure c'è il sito internet della radio ondarossa.info e sulla homepage c'è l'opzione sostieni per quanto riguarda la modalità PayPal. Tra qualche istante il radioteatro, siamo in attesa dell'arrivo di Flavia Mastrella e ad Antonio Rezza. Per quanto riguarda il radioteatro, ogni martedì dalle 14 alle 16. Tutte le informazioni le trovate sia sul sito della radio, la voce trasmissioni radioteatro, che sulla pagina Facebook. Per quanto riguarda le comunicazioni, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Mister Cosciente. Ecco, siamo in onda. Allora, Antonio Rezza, Flavia Mastrella, un anno dopo, cosa è cambiato in un anno? Abbiamo vinto l'Ubu. Oh. Ieri a Milano c'è stata la cerimonia, premi Ubu, associazione di Franco Quadri. Io vi chiedo intanto a questo punto, mi avete portato il premio, lo sì, sto che torniamo appena andare. Sta qui in studio, certo. È bello. E vi chiedo subito, cosa ne pensate in generale sui riconoscimenti, sui premi e poi sull'Ubu in particolare? Che ci è stato dato con 26 anni di ritardo, questo è quello che pensiamo, l'abbiamo detto ieri durante la premiazione, e quindi i prossimi li prenderemo noi con 26 anni di ritardo, li andremo a ritirare 26 anni dopo per vedere se viviamo più a lungo noi o le giurie. Questo è quello che faremo. È imperdonabile il fatto che ci vengano riconosciuti questi premi dopo 25-26 anni di lavoro. È non ha una spiegazione plausibile, dai. Quest'anno certo. Abbiamo vinto anche il premio anche l'Istrio, Istrio, tutto cioè stiamo... tutti i premi quest'anno 2013. Quindi questo, e tu che ne pensi, Flavia, del premio in generale e poi di questi riconoscimenti? Questo dell'Ubu è molto significativo, era insomma. Cioè lampante che il nostro lavoro è serio e metodico, ce lo dovevano dare prima, meglio tardi che mai, potrebbe essere utile forse a qualcosa, chissà. No, cercheremo di divulgare la notizia che l'abbiamo preso, perché poi da ieri, cioè io trovo veramente triste che il telefono si riempia di messaggi, al di là dell'affetto di chi li manda e della sincerità di chi li invia, penso che però sia triste che la gente è contenta perché noi abbiamo vinto un premio, come se appunto quello che abbiamo fatto prima non avesse bisogno di una... Di un riconoscimento ufficiale, insomma. Mm-hmm. Tutti sono tutti contenti, sinceramente, quindi ringraziamo chi ci ha tempestato di messaggi, di mail per dire complimenti. Adesso messaggi, adesso uno dietro l'altro arriveranno, ma appunto chi li vuole? Speriamo che ci danno il Nobel. Almeno il Nobel, cioè, il Nobel, no, Nobel è in denaro. So. Però insomma, non è che un premio possa cambiare la percezione della realtà di chi lavora in modo ortodosso, e non deve cambiare nemmeno la percezione della realtà di chi segue il nostro lavoro. Esatto, perché non, il pubblico non può cambiare perché noi abbiamo vinto un premio. Però, allora siamo qui, no, stai dicendo, Flavia, no, dicevo, però di fatto sì. Molti sono stati contenti, molti nostri ammiratori sono stati contenti sinceramente, però sinceramente. Questo crea una contraddizione in ogni caso. Ah. Sì, mi rendo conto. Siamo qui con voi perché domani andate in scena qui a Roma e starete in scena per più di un mese. Un mese e mezzo. Sì. Un mese e mezzo, quattro spettacoli, quelli dal 2003 ad oggi, se non sbaglio, e quindi un'antologia di... ogni spettacolo avrà una settimana di programmazione, giusto? No, Photo Finish una settimana, Bamut una settimana, 7-14, 21-28, due settimane, perché gli ultimi due li lasciamo una settimana in più per uno, perché sono... quelli meno visti. Allora, la prima cosa che hai citato tu, questi 26 anni, che pensiero viene a proposito anche del premio, questo fatto dei 26 anni di attività insieme? Flavia, per esempio. Diciamo che non ce ne siamo neanche accorti. Non te ne sei accorto. Abbiamo lavorato continuamente. E certo, altri 26 anni a sto ritmo potrebbe essere letale. Abbiamo fatto tante cose, cioè a noi ci è sempre sembrato un attimo. Noi ci sembra sempre che ci manca il tempo, quindi non l'abbiamo sentiti molto a livello temporale, però hanno dato i loro frutti, abbiamo fatto forse le nostre opere migliori in questo tempo, e tra cui 714, che è veramente esagerato di bellezza, e Fratto X, che è l'ultimo, e io considero il capolavoro. Beh, non so se è più bello di 714, 21, 28. Un po' se la contendono. Ma pure Fado Finish e Bamuttano sono due macchine potenti, è chiaro che sono diversi, insomma. Tu che ne pensi invece, Antonio, di questa collaborazione di 26 anni? Ma stiamo ancora bene, io finché il parametro posso essere io del nostro lavoro, cioè finché io salto c'è speranza. Nel momento in cui non salto più significa che sta invecchiando anche Flavia. Però finché io salto non invecchiamo nessuno dei due. Ecco, proprio a proposito di salti, per chi ci ascolta raccontiamo pure un po' come nasce il vostro lavoro. C'è un lungo lavoro di preparazione all'inizio, questo mi ricordo dalla nostra conversazione scorsa, Flavia, mi dicevi c'è alla base di tutto c'è un'esperienza figurativa, e poi il tuo lavoro per creare l'habitat e i quadri di scena nei quali poi coi quali si trova a interagire Antonio per un lungo periodo, e che in questo lungo periodo capita anche che ricominciate il lavoro da zero e poi passate da uno spazio relativamente ristretto al Teatro Vascello, che poi è a Roma il vostro teatro di residenza, che comunque ha un palco molto molto ampio, certo. E rappresenta quasi una sorta di nascita. Questa immagine mi era piaciuta molto della descrizione del vostro lavoro. Ecco, tutto questo iter come lo racconteresti, Flavia? Più che altro potrei dire che facendo questa antologia ci siamo accorti che lo spazio in cui abbiamo provato da sempre ha influenzato moltissimo i nostri lavori, perché per esempio c'è sempre un ingresso al centro, stiamo cominciando a fare caso a delle cose che prima per noi, cioè hai visto nella creazione, uno sta tutto agitato, non si accorge di certi particolari che poi emergono piano piano man mano che cresci, man mano che il lavoro si allontana a livello affettivo da te e tu lo puoi vedere dal di fuori, e dal di fuori abbiamo visto che questi ambienti ci influenzano moltissimo, cioè oltre a il mio habitat che Antonio vive, Antonio che vive dentro, c'è anche da parlare della stanza che accoglie l'insieme, che è una stanza magica anche. Quindi molto dipende anche dal luogo di partenza di tutto, la costruzione dello spettacolo. Come mai? Sì, perché è un luogo che ha ispirato tutti gli spettacoli praticamente, anche Pitecus, pezzi di Pitecus. E cosa di... Cioè è un posto dove stiamo da 23 anni, è un posto dove... Cosa ha di magico per te, Antonio? Vabbè, magico il fatto che si riescano a fare cose belle in uno spazio 9x7 che è anche ampio, perché è tutto spazio scenico, rispetto per esempio a dei teatri bellissimi all'italiana che sono nelle Marche, che hanno un palco molto più stretto del nostro spazio, quindi riusciamo, però per pochissimo riusciamo ad allestire. Ci priva di tante possibilità. A Torino, al Teatro Astra, dove noi ultimamente battezziamo gli spettacoli, Flavia ha montato 4 fasce invece che 2, abbiamo scoperto possibilità infinite con il segno della X, di Fratto X. Era una ricerca fotografica che stavamo facendo, quindi ci priva di alcune cose, però appunto questa privazione porta poi alla creazione di altre di altre forme contingenti, quindi è uno spazio assurdo, perché è legato proprio alla nostra nascita, insomma. Uno si affeziona, è meglio affezionarsi agli spazi piuttosto che alle persone, no? Anche perché lo spazio poi non è un cane, quindi non sente il sentimento, e non ha altre esigenze, insomma, cioè, rispetto al cane. Quindi ecco, poi non cresce, non invecchia. Non lo devi portare dal medico. No, non lo devi portare dal pediatra. I metri sono migliori dell'essere umano, insomma. Cioè, se l'essere umano fosse... l'essere umano sviluppa metri lineari solo quando è morto. E diventa... a piedi, scusi. Sì, a piedi sì, però va in altezza. Sì. Cioè il metro, i metri, per come li intendo io, sono i metri piani. Quindi... sì, ecco, sì, l'essere sì. umano diventa spazio solo da morto. Oh, Antonio, io quando avevamo pensato a questo spazio di quest'oggi, che anticipa di un giorno il vostro debutto qui a Roma con questa antologia, ti avevo fatto una richiesta. Cioè? Non mi ricordo. Non ti ricordi? Fare qualcosa? Vabbè, però non va bene. No, non saprei che fare. Che potresti fare? E ogni volta però mi combini questo. Io... no, perché preferiamo una chiacchierata, cioè preferiamo una chiacchierata pari a pari. C'era tutto il discorso sulle... ma lo facciamo il discorso, non ti preoccupare. Delegittimare la politica, insomma. No? Ma non parlare di politica, cioè delegittimarla proprio come pratica dell'interiore, cioè togliere importanza al pensiero politico. Allora sviluppiamo questo concetto. No, vabbè. Trovavo assurdo che oggi c'erano le fotografie, come ti dicevo prima, di persone che non hanno fatto niente, cioè fotografate sul giornale solo perché fanno parte adesso della segreteria di un partito, e soltanto perché nominate hanno più spazio rispetto, magari, che ne so, lasciamo perdere noi, che noi siamo, abbiamo tutto lo spazio, rispetto, che ne so, a qualsiasi artista, uno scultore, un pittore, che dedica la vita a quello che fa e non viene considerato dai mezzi di informazione. Queste persone non hanno fatto un cazzo, niente. Non sono dei geni, non sono ispirate da niente, che hanno la fotografia, il nome, la grandezza naturale della foto, tutto il corpo. Si parla di loro senza che, ecco, delegittimare la politica, perché la politica, il politico non è quello che fa, ma è quello che è. Cioè di un politico non si dice ha fatto questo, di un politico si dice quello è il segretario di quel partito, non si dice quello fa. Di un artista si dice quello bella fa. Bella questa. No, appunto, quindi c'è una discrepanza assurda. Bisognerebbe dare il valore alle persone non per quello che sono, cioè per quello che rappresentano, perché poi uno è anche quello che fa, ma per quello che hanno fatto, per la destrezza che hanno espresso. Quindi delle leggi togliere è un'assurdità che certe che persone che non hanno, che non lasceranno nessun segno, che non lo hanno lasciato, abbiano una visibilità così, cioè non sono delle rock star, non vabbè, sono ma niente. Ma questo succede anche succede nell'arte, sempre. Sì, succede anche chi nell'arte. Meno fa più è riconosciuto, ma non a questi livelli. Cioè non si può far diventare pop un fenomeno della negazione, della purezza dell'intelletto come la politica. Non potrà mai diventare un fenomeno pop, però lo stanno facendo diventare un fenomeno pop attraverso la visibilità sempre più estesa di persone che non hanno nessun merito, e bisogna delegittimarla in questo senso. Non è giusto che appaiano, non devono apparire, che sono pericolosi per l'immaginario collettivo, perché ognuno dice allora anch'io non ho fatto un cazzo, anch'io devo apparire. Ecco, questo è proprio un pensiero radicale. Quindi non sfilate per sempre queste manifestazioni per 2 euro in più, per un'elemosina che ma può arrivare, vanno bene, quelle vanno anche bene, però se il mezzo relazionale è sempre il denaro, a me non interessa. Se facciamo una lotta estetica, cioè queste persone non devono apparire, allora una lotta estetica scendo pure io, vado pure io a sfilare per una lotta estetica, per una lotta dell'occhio. No, infatti questo pure era un concetto che usciva fuori anche nell'altra conversazione, e io vi chiedevo cosa rispetto al reale che su cui spesso sferrate i vostri attacchi, e dov'è la salvezza allora? E voi mi dicevate nel talento, nella bellezza, nella qualità. È un po' questo il discorso adesso che stai rispetto alla politica che stavi affrontando, no? Per se stesso ognuno ha come salvezza quello, ma qui questo non era un discorso per salvare ognuno, questo è un discorso per salvare tutti. Sì. Quindi il talento non basta per salvare tutti. Ci serve la protesta verso tesa e indirizzata verso altri obiettivi, insomma, che non possono essere solo i soldi per arrivare a, come dicono tutti, alla fine del mese, quando non sai nemmeno quanti mesi ti farai di vita, insomma, no? Cioè, proprio pura presunzione quella di pensare che i soldi riescano a allungare la vita di quei 7 giorni che mancano per avere un'indipendenza economica. Ce la trovo proprio una cosa assurda. Sono problemi più gravi, sono problemi di morale visiva, e la battaglia va condotta lì in modo radicale. Cioè, non riconoscere importanza alla politica, non riconoscere popolarità a chi se la prende senza averla meritata, come posso dirti. Sì. Cioè, preferisco veramente una fotografia di quelli che vanno a Grande Fratello piuttosto che la fotografia di un politico che non ha fatto un cazzo, che non è nessuno. Ecco, proprio rispetto a questo discorso che stai facendo, Antonio, e questa magari la giro a Flavia. Allora, qual è secondo voi il, in questo caso stiamo parlando di visibilità e quindi di giornalismo, la carta stampata, i quotidiani. Allora, qual è il ruolo dell'informazione, della cosiddetta informazione, e degli intellettuali rispetto sia non solo all'ambito artistico vostro, ma più in generale rispetto alla realtà a questo punto? Adesso ce ne stanno di tanti che sono completamente asserviti al pensiero politico, quindi diciamo non c'è possibilità di uscita, perché l'immagine diventa sempre di più la forma di schiavizzazione della popolazione, quindi non esiste intelligenza creativa nell'immagine di condizionamento. Forse riusciremo a fare qualcosa con questi nuovi mezzi, che già per esempio le informazioni che viaggiano su internet, ma già lì si comincia a vedere si cominciano a vedere le prime tracce di un condizionamento feroce, tipo nello sport, i giochi che giocano tutti, cioè già prende una deriva che non è più informativa, non è più illuminante, ma è schiacciante come tutto il resto. Io penso che non è che ci sta tanta possibilità di uscire da questo condizionamento se non si chiude la porta ai mass media. Antonio, tu stai cerca sul giornale, Antonio. Sì, parliamo così, ma oggi mi si sente solo a me se tu non stai al microfono. Antonio, vai. Alcuni punti. No. Perché è giusto anche, cioè qui si parla. Questo rumore è il giornale. Questo rumore è un quotidiano. Di enti locali, di riforme, di economia, di comunicazione, di infrastrutture, di giustizia, di ambiente, di welfare, che non ho mai capito che cazzo significa, Europa, lavoro, legalità e sud. Non c'è una parola sullo strappare una popolazione dall'ignoranza. Non c'è una parola. E questi sono ancora più pericolosi, questi giovani che ci daranno filo da torcere nei prossimi 30 anni, e questi hanno anche la salute dalla loro. Non c'è una parola, cioè non va strappata all'ignoranza questo paese, va fatto lavorare. Ma se pensi che adesso molti ragazzi a 13 anni abbandonano la scuola, significa che noi fra 20 anni ci avremo una popolazione di analfabeti, con questi 4 cretini che gli faranno fare quello che dicono. Non c'è una parola sulla bruttezza architettonica delle scuole. C'è scuole elementari che sono dei casermoni, sembra la prima porta, il cimitero di prima porta, scuole medie, licei fatti a scatolotto. Cioè, se la scuola è anche un momento così, la scuola è sempre un momento devastante, no? Però sì, che almeno però l'architettura, scusa, che almeno l'architettura sia più accogliente. Non c'è una parola su questo, sono completamente marginali queste cose per chi si appresta a farci il culo. Io no, mi viene in mente a partire da queste due parole il fatto che probabilmente parlavi dei casermoni che sono gli edifici scolastici, probabilmente sono espressione di una società, di una cultura che li esprime. per esempio. I soldi vanno spesi lì. I soldi vanno spesi lì. Nel rendere più confortevole un lager come quello dell'istruzione obbligatoria, insomma, no? Che sia un lager, ma almeno dove l'occhio si riposi. Tornando alla vostra poetica, al vostro modo di fare spettacolo e teatro, una cosa che io ricordo sempre le nostre conversazioni, che mi aveva detto Flavia, mi ha e invece la rigiro a te, perché mi ha suggestionato questo sguardo vostro sull'esterno, che è sia tenero che aggressivo allo stesso tempo. Come lo spieghi tu, Antonio? Cioè, qual è l'esterno? Verso il mondo che vi circonda, attraverso per esempio i video e le interviste che fate, insomma. Ma noi siamo di indole gentile, però siamo dei combattenti. Quindi il combattente non dà visione della sua gentilezza privata, la esprime quando c'è bisogno, perché altrimenti non sarebbe abbastanza mitizzato. La cattiveria è molto più mitica della bontà. Noi, se siamo buoni, ce lo teniamo per noi. E dobbiamo dare. Il combattente è quasi sempre stronzo o determinato, cattivo, no? Noi combattiamo per noi e non per gli altri, perché non siamo ipocriti. Combattiamo per noi e diamo sollievo agli altri che ci vedono combattere. Un gran combattente dà sempre sollievo agli altri che lo vedono guerreggiare. Però siamo di indole gentile, ma questo è questo difficile. È un limite, volendo, un limite. Perché forse dovevamo essere più cattivi nella vita e meno nell'arte. Oh, un attimo di musica per riprendere fiato, visto che stai costruendo anche una sigaretta. Una sigaretta, sì, ogni tanto. Pure frelluccio, puriccio, esercizio. Allora, torniamo in diretta dopo la pausa sigaretta per Antonio Rezza e Flavia Mastrella. Ritto, suma. Che da domani di nuovo in scena qui a Roma. Ora facciamo un pezzetto, va, che gli faccio? Ma cioè, io te l'avevo chiesto, poi non lo so, fai come vuoi, però insomma, se vuoi fare tutta chiacchierata. Allora, dicevo, da domani al Teatro Vascello, con un'antologia di quattro spettacoli, gli ultimi quattro spettacoli che vanno dal 2003 ad oggi, i primi due stanno una settimana sola, invece 7, 14, 21, 28 e Fratto X, che sono gli ultimissimi, saranno in scena per due settimane. Tra l'altro, come al solito, ci sarà il Capodanno che gestirete voi, no? Al teatro, Antonio. Sì, non so che formula gli sarà quest'anno, però ancora non si sa niente di questo Capodanno, perché dobbiamo trovare nuove idee, nuovi stimoli. Costa meno dell'anno scorso, però. Voglio fare una cosina? Te la senti? Solo se te la senti. Ma non rispondiamo al fatto dell'insulto? L'insulto è, l'insulto è... No, allora spiego un attimo poetica. Pure... spiego un attimo, perché ci ha chiamato un ascoltatore che dice che a uno spettacolo vostro è stato e secondo lui Antonio insultava il pubblico dall'inizio alla fine, e lui a un certo punto ha preso e se n'è andato, e quindi io ti ho rivolto questa prima sulla poetica risponde Flavio e poi rispondo sulla... Okay. L'insulto è un modo di muovere la platea quando sono un po' distratti. Antonio li insulta per muovere una reazione, insomma. Ma in modo testuale, perché se vedi, si riferisce probabilmente a Pitecus o io, cioè ci sono quegli insulti che non sono insulti, fanno parte del testo, metatesto, che sono presenti in ogni spettacolo, quindi non è una questione personale, è una questione che si manifesta ogni volta. Negli ultimi quattro spettacoli non c'è niente del genere, quindi poi diceva anche il signore, il ragazzo che ha chiamato, che delle scuole, che il padre ha contribuito alla costruzione delle scuole, insomma, dell'importanza delle ben venga, cioè ci mancherebbe, se ha contribuito non può essere criticato, come stavo dicendo io prima, rispetto ad altre persone che non lo fanno, cioè ognuno poi è responsabile di quello che fa. Io mi riferivo all'architettura. cioè quando leggi il cartello che stai con la macchina, attenzione, rallentare a 200 metri scuola, io ho fatto caso che il primo cubone orrendo che si vede in lontananza è la scuola. Quello dicevo, non basta costruire le scuole, bisogna costruirle bene, perché uno la sua casa se la costruisce per come più gli piace, mentre la scuola no, la scuola non deve piacere a chi la frequenta. Bisogna consultare gli architetti giusti. Non è un discorso marginale, vorrei far capire al radioascoltatore che ha chiamato, insomma, no? Cioè, un edificio bello non è una questione collaterale, ma è un problema principale. Non Santa conta. Rita. Partiamo sì. Con Santa Rita. Cioè, non conta solo quello che ci si fa dentro la scuola, conta anche com'è la scuola fuori. Vabbè, faccio un pezzo sulla provenienza. Oh. Un pezzetto. Rita da Cascia. Rita da Cascia, per gli amici Rita. Agli amici non serve Cascia. Lo sanno gli amici che sono di Cascia. Non è che gli amici vengono ogni giorno a bussarmi a casa a ricordarmi che sono di Cascia. Toc toc, sei di Cascia, sei di Cascia, sei di Cascia. Lo so da sola che sono di Cascia, è tautologico che io sia di Cascia. Anche gli amici sono di Cascia, li chiamo amici, non è che li chiamo amici di Cascia. Tra di noi quando usciamo non è che parliamo solo del fatto che siamo di Cascia. Ah, di Cascia, pure tu di Cascia, tutti di Cascia, uno per tutti, tutti per Cascia, no. Siamo persone, non siamo di Cascia. Prima individui e poi municipalizzati a Cascia. La prima volta può essere successo uscendo, ah, sei di Cascia, anch'io sono di Cascia. Non è che la volta successiva, sempre di Cascia, per forza sto a Cascia. Abbiamo anche altre risorse a livello dialettico, fuorché Cascia. Se nascevo a Gubbio, ero Rita da Gubbio. E ci avevo gli amici di Gubbio, perché gli amici di Cascia non sarebbero mai venuti a Gubbio a fare gli amici di Gubbio di Rita da Gubbio. Pensa che amici bastardi che ho a Cascia. Se Francesco invece di Assisi era Francesco da Cascia, c'aveva gli amici di Cascia, perché gli amici di Assisi non si sarebbero mai trasferiti da Assisi fino a Cascia per fare gli amici di Cascia di Francesco ex novo da Cascia. Pure Francesco c'ha certi amici stronzi, però. Così è l'amore, soprattutto l'amore. Ti amo sopra ogni cosa, non mentire, sei solo da Cascia. Siamo fatti l'uno per l'altro, non dire cazzate, abitiamo tutti e due a Cascia. Non è amore, è residenza. Peggio degli animali. Ecco, questa è una sintesi spietata sulla negazione dei rapporti elettivi. E questo mi faceva anche venire in mente il discorso, anzi l'impiccagione al filo del discorso in contrasto col vostro teatro, che si potrebbe definire in qualche modo dell'assurdo. Ma Flavia, non lo so, perché poi alla fine esaminando, ultimamente stiamo esaminando, sì, un po', perché stiamo scrivendo un libro, no? Ci è sembrato di essere addirittura iperrealisti. È nella forma che siamo metafisici, ma nel contenuto siamo di un realismo anche eccessivo. Quindi si può dire che la nostra è una forma nuova che mischia più sentimenti. Ma anche riguardo al discorso di prima della negazione dei rapporti elettivi, cioè io e Flavia abbiamo un rapporto creativo che dura da 26 anni, quindi è un rapporto indubbiamente elettivo, perché nessuno avrebbe potuto fare con un'altra persona quello che stiamo facendo noi insieme, ma deriva dalla posizione geografica. Perché io abito a Nettuno e Flavia abita a Anzio. Ah, 2 chilometri. Cioè, lo stesso posto. Quindi lo spazio scavalca il sentimento, scavalca la ragione. Cioè, noi, ecco, ritorniamo al discorso dell'architettura. Cioè, tutto poi sembra che uno dica le cose per provocare, ma tutto ha un suo filologico e viene poi ricostruito all'interno di un discorso razionale. Cioè, è lo spazio che determina i rapporti, è lo spazio che determina la crescita mentale dell'individuo, è l'architettura che determina l'ambizione e l'utopia dell'essere umano. Mi sembra che non faccia una piega questo discorso, insomma. Ecco, sempre riguardo a questo, Flavia, il vostro è un teatro non scritto, non c'è nessun testo, eppure è calcolatissimo. Sì, perché è un teatro che nasce dall'improvvisazione, perciò da una spontaneità assoluta, che poi cioè una volta che Antonio ha fatto questo testo improvvisato, noi lo andiamo a razionalizzare o a derazionalizzare, che sarebbe la stessa cosa, togliendo i contatti troppo spiccioli con la realtà, temporali, e poi costruiamo queste macchine in base al ritmo del corpo d'Antonio, al ritmo della parola, al ritmo della forma. Questi ritmi insieme, sì, danno un risultato esilarante, anche perché sono, oltre a essere ritmi, sono anche forme di dialogo, forme di comunicazione. C'è la comunicazione del colore, della forma, del corpo, della parola, del suono e del ritmo, che sarebbe il piede che batte sul palco. A proposito di comunicazione, Antonio sostiene anche che il vostro lavoro è per i morti o per gli ancora non nati rispetto al pubblico vivente. Vabbè, il pubblico vivente è un pubblico di nicchia, per quanto possa essere vasto, rispetto a quelli che non ci hanno mai visto perché morti prima e a quelli che non ci vedranno perché moriremo noi. Quindi per quelli morti prima non possiamo fare niente, niente, questo togliamo ogni speranza ai morti, però per quelli che nasceranno quando noi non ci siamo, tramanderemo il nostro teatro shakespeariano, no? Che si servirà di persone pronte a rinnegare la propria libertà in cambio di denaro, cioè dovranno fare gli spettacoli esattamente come li facciamo noi, senza modificare una virgola. Noi vogliamo essere ricchi da morti, per poter investire da morti sulla nostra grandezza terrena. Può darsi anche che riusciamo a fare un clone d'Antonio, così continua. Quello sì, sarebbe. Oggi chiedelo, c'è la visita dal piede pediatra, chiedi come poter fare, insomma, no? Ma perché io non ho seguito, la clonazione esiste? Cioè si può clonare una persona? Le pecore l'hanno fatte. Vabbè, per ora siamo alle pecore. Le pecore ci sono sempre state e questo è il nostro male. Quindi non è che fai la pecora, ci hanno fatto l'animale più bersagliato dalla vigliaccheria, no? Cioè non potevano fare un leone, no? Hanno fatto la pecora, quindi come inizio è proprio fallimentare. Oh, sempre rispetto all'arte, tu Flavia hai praticato anche altre forme d'arte, dalla grafica alla pittura alla scultura e poi insomma avete anche lavorato col video e poi dici che ti sei allontanata dal mondo dell'arte proprio per mancanza di spazio. Sì, non ho mai sopportato tanto lo spazio delle gallerie, anche se ogni tanto mi ci tuffo dentro. E certo, il teatro mi ha accolto, mi hanno accolto le persone del teatro dandomi questa possibilità, perché cioè io tutte le volte mostro a tantissime persone il mio lavoro. E questo mi ha fatto crescere a livello anche molto spaziale. Però adesso per esempio farò una mostra al Mambo a Bologna, al Dipartimento Scuola Educazione, e che riguarda il percorso figurativo che ho fatto prima di arrivare all'habitat di Bamut, che è un discorso sui giocattoli trovati per la strada. E è un museo, quindi lo spazio già è diverso, è più aperto, ma comunque niente, mi sono dimenticata la domanda. Puretto, questo è vero, caratteristico in Pippo. Sì. Vogliamo fare un altro pezzetto, Antonio? No, come io sai, approfittato perché stava a fare lo scemo. No. Ma non so perché non ce li ho, perché gli ultimi spettacoli sono talmente legati alla forma. Che anche però funzionano, tu funzionano però funzioni sempre al microfono. Rita da Cascia con l'apparato scultoreo di Flavia certo, è un'altra cosa insomma, perché accontentarsi della voce adesso non so che cosa fare. Perché però ti vivi la radio come una limitazione? Bella, no, perché la voce non basta a rendere giustizia al lavoro che facciamo, no? Altrimenti ovvio. Non è una parte è sicuramente più, però Flavia importante. Ce l'abbiamo dal vivo che ci parla, per cui e potrei parlare di colori perché le forme sono indescrivibili, poi alla fine è difficile spiegare l'abito di Santa Rita per esempio che è diciamo un abito da super suora, però non si vede, cioè non so come spiegarlo, fratto X è fatto di fasce elastiche, di niente quasi. Com'è la supersuora? La supersuora la supersuora è praticamente Rita da Cascia, è una persona che è larga 2,40 metri, è larghissima è un personone. Oh, rispetto specialmente agli ultimi spettacoli, Antonio, tu li consideri delle macchine potenti, di cui tu sei il pilota. Com'è questa immagine dello spettacolo come macchina? Che non si può correre, non si può fare lo spettacolo sul bagnato. Cioè, i più grandi piloti, poi dicevo Senna prima, riuscivano. Io avevo il mito di Senna, no? Sospendemmo un doppiaggio quando è morto Senna, il 1° maggio del 1994. Stavamo facendo un doppiaggio per un film dove andrà Bellaria. Mancavano 2 giorni, sospeso il doppiaggio, non riuscì più a doppiare. Cioè, che non si possono fare spettacoli sul bagnato per vedere se uno è forte anche sul bagnato. E questo è un limite proprio del teatro. La musica invece ha più, i concerti si fanno spesso anche sotto l'acqua. No, però le partite sotto l'acqua. Uno spettacolo l'abbiamo fatto sul bagnato, Bahamut. Sì, a Milano scivolammo, però fu bello, insomma. E anche lì c'è più epica nell'acqua, che è una cosa naturale, rende più epica qualsiasi vicenda. E pioveva tantissimo, la gente non è andata via, cioè, alla fine erano tutti bagnati, Antonio, la gente che guardava, è stata un'esperienza estrema. Oh, adesso io farò una domanda a Flavia. Sì. E tu nel mentre, buono, me ne pensi una da fare. Sì, te ne penso una da fare. Ah, te, okay, ne penso una da fare. Allora, ok, bellissima questa. Flavia, rispetto sempre alla vostra poetica, due caratteristiche principali: la libertà totale e anche la sorpresa, lo stupore. Sì, lo stupore. Praticamente io lavoro, faccio il mio habitat, Antonio si stupisce e lo vive. Poi io mi stupisco a vedere cosa fa lui e poi la gente si stupisce a vedere cosa abbiamo fatto tutte e due. E oltre a questo, oltre allo stupore, c'è anche la possibilità, cioè noi diamo sempre un quadro della situazione che non è un quadro certo, non è un editto, è solo un frammento di argomento che permette uno spunto che permette all'osservatore, a chi guarda, di confezionarsi una storia su misura. Questa è una cosa molto importante secondo noi, perché in questo modo la fantasia gira, i cervelli si muovono. Questo è il nostro scopo, sì. Averci i cervelli vivi. Allora facciamo un altro omaggio al radioascoltatore teorico, un omaggio teorico per dimostrare ancora una volta che lo spazio è la molla che muove il nostro lavoro. Tutto nasce dallo spazio che realizza Flavia e poi io mi sfinisco lì per un anno e mezzo. Facendo il pezzo dei numeri per radio, che ho pensato è assurdo farlo, però lì è lo spazio che diventa numero. Sì. Allora, se ognuno a casa che sta ascoltando si mette con le dita sul tavolo, le dita che saltellano, tutti sono in grado di assumere questa figura nella mano, e ogni volta che io dico un numero fanno andare avanti le mani. Allora, ho 52 anni, quando inizio a dire ho 52 anni è il personaggio fermo, quindi non devono saltellare. Ho 52 anni, ho il mio 6° matrimonio. I 5 mariti precedenti sono morti tutti e 5. Il primo ci aveva 24 anni, il secondo 26, 34, 35, 36, 35, 34, 26, 24, 52, la sottoscritta. A 24 anni sono andato al funerale quello di 24, a 26 a quello di 26, 34, 35, 36, 35, 34, 26, 24, 52, la festeggiata. 24, con quello di 24 abbiamo avuto 2 bambini, 9 e 18. 9, 24, 26, 34, 35, 36, 35, 34, 26, 24, 52, la puttanella. 24, 9, 18, 26, 34, 35, 36, 35, 34, 26, 24, 52, una ripassata. Così, questo è un esempio di come lo spazio viene decontestualizzato e diventa per il pubblico un numero. Ogni volta che io atterro su 26, il pubblico dice 26, sa che è 26. Quindi capisce che quello spazio non è più lo spazio scenico, ma diventa un numero. Diventa un numero, diventa una frase o diventa un'associazione logica. Mm-hmm. E quindi sempre per dimostrare che lo spazio è più importante dell'essere umano, anche perché lo spazio poi resiste e l'essere umano, se non si fa bruciare, sappiamo la fine che fa. E in ogni caso l'osservatore deve razionalizzare questa forma completamente astratta. Sì. Oh, rispetto adesso invece stavo pensando al teatro, anche al discorso della politica che hai cominciato prima, Antonio, e quindi al ruolo del potere rispetto all'arte e al teatro in particolare. E voi siete contro il finanziamento del teatro, ma per il supporto logistico delle strutture, di chi ci lavora dentro e del mantenimento degli stabili, però in questo gli spettacoli invece devono essere completamente liberi, giusto? Sì, cioè l'espressione artistica deve autogestirsi, invece l'apparato tecnico deve rimanere in vita. Spazi e personale devono essere di responsabilità statale. Sì. Questo nel programma non l'ho letto. Anche perché poi non si parla quasi mai di tutta quella gente che vive nel teatro, degli attrezzisti, dei macchinisti, di quelli che fanno i disegni luci, che sono persone fondamentali, direi. E sono anche molto affascinanti spesso. Cioè sono personaggi. E vanno tutelati attraverso la retribuzione che deve essere di pertinenza statale. Il teatro va mantenuto dallo Stato, il personale va pagato dallo Stato, l'opera no, l'opera non può avere una committenza, certo, da parte di chi poi la imbavaglia, no? Certo. C'è proprio una condizione illogica, ci sono delle condizioni così innaturali che invece il tempo ha reso familiari ingiustamente. Avere uno staff tecnico preparato significa lavorare con gioia, che è una cosa che va sempre meno bene adesso, perché che cosa fanno i teatri per arginare questo fatto del calo dei fondi? Tagliano sul personale, ma sul personale quello tecnico. E questo è molto grave, E poi risparmiando sulla committenza potrebbero essere pagate molto di più le persone che lavorano all'interno dei teatri. Cioè, se tu non paghi l'opera, non commissioni l'opera, puoi con quei soldi pagare meglio i macchinisti, gli attrezzisti e tutte le figure che mandano avanti gli spazi. Un altro discorso che facevi all'inizio, Antonio, riguardava i debutti, che sono sempre al nord, e questa cosa magari me la dice Flavia, visto che l'hai espressa tu prima, perché il nord vi obbliga ad un rigore che invece magari qui a Roma, con un pubblico sono troppo buoni, indulgenti, insomma. Ecco, questa cosa del nord e del rigore che vi richiede. Quello purtroppo è un dato di fatto. A nord sono più rigorosi, sono più attenti a certe sfumature, e invece diciamo da Roma in giù sono passionali. Poi a Napoli cambia ancora, perché a Napoli sono spietati. Se stanno zitti i primi 20 minuti, vabbè, ma con noi non succede, con noi non succede. Si scaldano, cioè ogni cosa nuova la valutano benissimo e poi dopo si scaldano, sono allegri. Ma se non gli piace, penso che sarebbero veramente guai seri al sud. Cioè, il discorso è sulla lingua, che facendolo al nord prima lo spettacolo si italianizza meglio, no? Invece ecco perché preferiamo, casualmente, non è che scegliamo, le circostanze ci portano quasi sempre a fare i debutti a Milano, a Torino, da 10 anni a questa parte. E il Bahamut l'abbiamo fatto a Siracusa, però insomma fino adesso ha dato dei grandi frutti. Sì. Ne pensi un'altra mentre chiacchierò con Flavia? Sì. Un gran finale magari. Sì, un uomo distrutto uccidato. Sì, lo vedo che si accascia sempre di più. Flavia, un teatro visivo che però lavora anche su concetti, cioè lavora su concetti alti, pur essendo un teatro visivo. Ecco, questa cosa ce la racconti un po'. Posso raccontarlo con l'esempio di Fratto X, che sì, è l'ultimo lavoro. Fratto X è nato da una ricerca fotografica sulle luci in movimento. E questo lavoro, la luce è un elemento, diciamo, naturale per l'uomo, dà subito quel senso di ascetico, di forte, ho cercato poi di rappresentare la luce con queste fasce di fratto X, e il risultato è stato un ambiente che è molto molto ascetico, da energia, un'energia però di riflessione. E questo lavoro è anche un divieto, è anche una costrizione, e il pubblico penso che lo senta. Vabbè, allora ce l'ho, è di photo finish. Allora. Cittadini, mi avete accusato di fare poca politica estera, ho certe gigantografie che vi metteranno in ginocchio. Qui sto salutando Bob Kennedy, gli sto dicendo: guarda Bob, che tu ti perdi Italia-Germania 4-3 del 70, Bob, eh? Fatti due conti, Bob, perché è una bella partita. È l'unica volta che la Germania ha perso senza bisogno di rinfacciare l'olocausto, Bob. Qui sto salutando Jimmy Carter, gli sto dicendo: falle più piccole queste due torri, in modo che anche se dovessero cadere, uno da sotto pensa, beh, sarà stata una ragazzata. All'interno dei progetti per la sicurezza americana si fa pazzo il disegno di una torre di misura notevolmente inferiore rispetto alle due gemellissime, che anche se dovesse cadere, uno da sotto pensa, beh, sarà per farci fa quattro risate. Vedo che il proclama teorico è poco chiaro, faccio quindi parlare esecutivo. Questa è una torre gemella sicura di misura notevolmente inferiore rispetto alle due accapottatesi. È una torre che la mattina 8:15 permette l'installazione di un solo manager al lavoro. Dici, così l'economia rallenta, sì, però il manager lo riportiamo a casa. Il manager un po' lavora col suo PC esterno e un po' si regge forte alla torre, perché memore dell'11 settembre dice sì, sarà pure sicura, ma può sempre arrivare una pallonata. Questo chiaramente senza l'elemento scultoreo di Flavia, che è una torre gemella prêt-à-porter, dovevo brevettarle, insomma, si sarebbero vendute. Cioè, ognuno c'aveva la sua torre gemella da far precipitare a casa. E ha un fascino particolare, perché si vede proprio l'essere umano dentro questa torre che è alta 1,10 m, così, e dà l'idea di un crollo possibile solo se la punizione la batte Roberto Carlos. Tra l'altro, il fenomeno della torre gemella ha condizionato tutto il tempo dal 2001 a oggi. Fagli dire, è Mazzola. Ah, Mazzola, non sì, posso. Mazzola io su richiesta non faccio niente. Su richiesta non faccio niente. Fagli dire a Mazzola, mi è arrivato questo messaggio. Su richiesta. Baffi come fa? Mi stava rivedendo in mente invece il video che avete realizzato insieme al Teatro Valle Occupato, che tra l'altro fa una trasmissione qui il giovedì alle 15, e mi parlavi in quell'occasione dell'incomprensione tra l'artista e la gente, il pubblico, insomma. Eh sì, la lontananza dell'arte dal sentimento popolare. Sì, quello è un divario che va sempre crescendo. Cioè, non si capisce come mai. Non riesco più a capirlo, perché di fatto la funzione dell'arte è sempre stata sociale. Sì. Perché adesso l'arte deve essere una cosa di nicchia? Chi lo ha stabilito? Questo non riesco. Più vado avanti e più mi si allontana. E questo non riesco a capire. Tu? Io niente, lascerei, ecco, con questo smarrimento di Flavia, lascerei chiuderei là il nostro intervento. No, io devo andare dal pediatra adesso. Tu devi andare dal pediatra, giusto? Perché devo verificare se c'ho delle bollette che non credo che siano di origine di scarlatinosa. Che Giordano c'ha la scarlattina, ma non credo di averla. Potrebbero essere da stress, no? Da stress. Tranquillizzi i radioascoltatori. Sì. Che visto che già arrivano scena. I messaggi di... No, non è scarlattina, ecco, vorrei tranquillizzare. No, ma già ce l'ha avuto l'anno scorso. Che non è scarlattina. Bolle. Sono bolle del vascello. Sono le bolle del vascello. Sono le bolle che escono quando entriamo al Teatro Vascello, che per l'emotività. Vuoi fare qualcosina? Un finale? Non mi ha fatto preparare. Che non ti ho fatto preparare. Che finalina? Anche perché poi ho una domanda per te. E allora fammela subito. La domanda è sulla la memoria. Per te è un elemento importante la memoria. Ecco, che rapporto hai con la memoria? Con la memoria autistica, con la mia memoria, che è selettiva e numerica, è un rapporto naturale, perché non è che la eserciti, va da sola. La memoria. Però ecco, noi facciamo teatro di memoria, però della nostra memoria, no, di quella degli altri. E quindi è un teatro statistico, ingegneristico, architettonico, che andrebbe studiato nelle facoltà di scientifiche, insomma. Ma questo per i non nati ancora, no? No, no, adesso. Adesso, adesso il rettore dovrebbe dire. Anche per i premi a venire, insomma. No, vado a vedere lo spettacolo. Se è un'architettura esatta, se è una macchina scientifica esatta, allora la faccio studiare a facoltà di matematica, insomma. Invece siamo stati a Mosca con 7.14. Ho visto il telegiornale, ho visto il telegiornale russo che avete messo il link, no, sulla sì. mail. Adesso parliamo tutte e due russo. Ma è fantastico. Allora, cioè, lo spiego anche a chi ci ascolta. Un telegiornale russo ha mandato un servizio su tre telegiornali. Io uno ne ho visto, però insomma è divertente, insomma. No? Come che effetto ti ha fatto vedere un servizio della televisione russa sul tuo lavoro? No, ma non è che ci ha fatto effetto, noi siamo stati benissimo lì e insomma sarebbe. Beh, ci siamo divertiti a vederci piacere. Parlare russo, dai. E anche rimanerci un po' di più, perché poi è stato veramente bello. Poi la traduzione era simultanea dello spettacolo, nemmeno con i sottotitoli, quindi. Grande. Era ancora più difficile, però ridevano a tratti come sul capriolo e sui numeri. Che permette un rallentamento della parola, quindi l'inserimento a tempo del traduttore, ridevano come qui. Quindi il pubblico russo sui numeri è... Ma su tutto, sì, cioè, su tutto non ci hanno mandato in Siberia, quindi tutto non a posto. La bestemmia l'hanno tradotta in italiano, perché lì ci sono 2 mesi di carcere, quindi per non tradurla o edulcorarla ne sanno qualcosa le si trovava un accordo col traduttore, ancora dentro. Però usciranno miliardari le Bussirai, eh? Cioè, usciranno, ci stanno, però vedi, se già si fanno libri qua, io questi fenomeni di, cioè, nel senso, allora parliamoci chiari, se ci arrestano e dopo 2 anni usciamo ricchi, allora noi oggi ci andiamo a costituire, va bene? Promesso, d'accordo? Adesso chi può capire capisce, chi non vuol capire fa finta che non capisce. Ci regali un finale? Oddio santo, questo finale non lo so. Mahmood, che c'è? Pensiamoci, dai. Allora, ti faccio un... Vabbè. Io e Porfirio ci conoscemmo una fredda mattinata di gennaio. Questo è uno che cammina. Camminai, Dio solo sa per dove. Mi fermai, Dio solo sa perché. Camminai, Dio solo sa per quanto. Mi fermai, Dio solo sa per come. Ma di dove sei? Di dove rimani? Rimano qui, se vuoi. Questo è di dove rimani? Ma di dove sei originario? Sempre di qui, sempre se vuoi. Posso invitarti a cena? Se vuoi, ma soprattutto se puoi. Scusa, ma chi è questo che cammina avanti e indietro mentre io te parliamo? Non lo so, non lo conosco, è la prima volta che lo vedo. Praticamente questa è l'antitesi di 6 anni prima di quello che sarà poi il gioco di Luciana e Luciana in 7.14 delle voci. Cioè il personaggio che sono sempre io e cammina per andare a occupare le 2 posizioni più distanti viene sradicato dal suo ruolo di... I 2 personaggi si chiedono chi è questo che dà loro la vita. Come dovremmo fare ogni volta che nasciamo, chiederci chi sono questi 2 stronzi. Penso che sia un grandissimo finale. Sì, e io proprio mi fai venire in mente anche una cosa, che Fratto X è forse il primo spettacolo che vedo in cui l'attore non è sul palco, non si vede. Ah, il foto! è una cosa fantastica. Per sette minuti l'attore... Spostiamo la narrazione, visto che c'è una sedia che allora, ha preso... Spostiamo la narrazione dentro i bagni. Allora, Antonio Rezza deve andare dal pediatra. Tra mezz'ora a Monteverde ci stiamo, secondo te? Sì, secondo me sì. Allora, ricordiamo l'antologia. Andiamo tutti dal pediatra. Adesso non so il nome del pediatra né l'indirizzo, altrimenti potremmo tutti i radioascoltatori al pediatra a condividere questa cosa. Al Teatro Vascello, no? Invece ci vado solo io. Allora, 4 spettacoli al Teatro Vascello dall'11 dicembre, domani, fino al 19 gennaio. Gli spettacoli, i nomi li... Foto finish. Mahmood 7.14 2028 e Fratto X. Allora, i primi 2 una settimana, gli ultimi 2 una settimana, poi 2 settimane e 2 settimane. Da mercoledì 11, sai perché facciamo così lunghi? Perché quando chiamiamo gli operatori che ci diciamo, i nostri detrattori più grandi, no? Loro sperano che stiamo poco e dicono non possono venire. Invece se fai 45 giorni di replica non hanno scuse. Chiudiamo con una promessa, Flavia, vogliamo fare una serata per la radio, vediamo dove, magari proprio al Teatro Valle, prossimamente, dopo, dopo gennaio ci si può pensare una serata. Sì, io il 23 faccio questa mostra, quindi ok, dopo il 26. Sì, dopo, dopo il 26. Io te l'ho io ve l'ho proposto, via. Sì. Allora un saluto ad Antonio e Flavia, un abbraccio, a risentirci presto, e adesso c'è questa cosa da mantenere. Adesso sei in onda, Andrea Cosentino, ben ritrovato. Ciao, ben ritrovati a voi. Come va? Che dici? Va bene, che dico? Così, le domande generiche oggi, andrò stessa diventando sempre più generalista. Sì, così. Va bene. Intanto per spezzare il ghiaccio, come stai, che dici? E poi sono stati Aurora, Antonio Rezza e Flavia Mastrella, e adesso invece ci dedichiamo un po' all'agenda, e tra le cose che mi sono arrivato ho detto, ho visto questo doppio appuntamento che ti riguarda, ho detto vabbè, perché non ne parliamo in diretta proprio con Andrea. Allora Andrea, raccontacelo tu, uno giovedì e uno sabato, vero? Sì, questa settimana occupo in qualche modo il Cinema Palazzo, nel senso che un po' casualmente sono programmato due volte in settimana in un posto che peraltro è vicino a casa mia, ma dove non ho mai performato, si dice. Per l'esattezza giovedì partecipo, insomma, sono il protagonista della giornata di questa rassegna che si chiama Scrittori a Chilometro Zero, quindi una rassegna dedicata alla presentazione di libri di scrittori sanlorenzini, ora che sono ormai sanlorenzino d'adozione, appunto, dove presento alle 7, alle 19 il mio quasi nuovo libro Primi Passi sulla Luna, un libro insomma in qualche modo che deriva da un mio spettacolo teatrale di un paio d'anni fa, e poi sabato per questa rassegna organizzata da un gruppo di universitari che si chiama 24 fotogrammi se non sbaglio, riesumo la mia vecchia storica, ma secondo me sempre attuale, sempre divertente, Telemomocio, la mia televisione autarchica in filiera corta, dove mi diverto a giocare con i pupazzetti, a prendere in giro appunto la televisione. E questo è quanto. E questo è quanto. Ma sei d'adozione fresca o è un po' che vivi in quartiere? No, ormai sono 20 anni che vivo a San Lorenzo, allora, diciamo, da quando sono sbarcato a Roma, si può dire, quindi sono più gli anni che ho vissuto a San Lorenzo di quelli che ho vissuto a Chieti. Quindi l'accento è di San Lorenzo, insomma. L'accento è tipicamente sanlorenzino, come si può sentire anche da questa conversazione telefonica. Bene Andrea, senti, per avere ulteriori informazioni sulla tua attività, io però volevo chiederti anche qualcosa sulla Luna, visto che si parlava dei primi passi sulla Luna, una domanda mi viene, ma cosa rappresenta per te la Luna? Cosa rappresenta per me la Luna? mi ricordavo una radio cazzuta e di estrema sinistra, mi ritrovo Marzullo. Cosa rappresenta per me la Luna? Federico Raponi, per me la Luna è, cerco di dare una risposta adeguata all'atmosfera, insomma, è una cosa che può essere tonda, può essere anche una mezza falce e martello, insomma anche il martello, ecco, la Luna può rappresentare qualcosa tonda che sale, scende, insomma assume tutte le forme, ma sempre luminosa, ma sempre qualcosa che non possiamo toccare, diciamo. Bene, ti stavo chiedendo invece in realtà la Luna, io scherzo nel mio spettacolo appunto prima si su questa cosa di questo modo di dire, no? Ti indico la Luna e tu mi guardi il dito, insomma in realtà anche tutto lo spettacolo che poi deriva il libro è una riflessione sul fatto che appunto a teatro la Luna è inarrivabile, è intangibile, l'unica cosa che un attore può fare è ciò che in fondo un attore vuole, farsi ammirare il dito, che poi è un po' bellezza e limiti del teatro, insomma, questo nostro narcisismo che ci portiamo dietro, che secondo me quando uno lo denuncia apertamente poi insomma se ne libera anche, e quindi può iniziare veramente a provare a toccare la Luna con un dito. Oh, rispetto a questo periodo ho visto che ogni tanto fai qualcosa in giro, ma stai lavorando a un progetto un po' più ampio, dicci un po'. Ma in realtà Natale su sto lavoro, sto portando in giro il mio nuovo spettacolo che ho debuttato quest'estate, oltre che vabbè, portare in giro sempre i miei spettacoli di repertorio, perché te, essendo un attore da solo in scena, il mio repertorio non va mai in pensione, però sto portando in giro questo spettacolo che come sempre nei miei spettacoli cresce man mano con le repliche, perché arrivo sempre un po' impreparato alle prime, nel senso che non sono uno che prova tanto uno spettacolo, mi piace provarlo davanti al pubblico. Adesso sta diventando uno spettacolo di cui sono soddisfatto, di questo spettacolo che si chiama Not Here Not Now, ma sostanzialmente passa e inizia a essere conosciuto per essere uno spettacolo sulla Abramovic, su Marina Abramovic. In realtà è uno spettacolo in cui discuto, un po' prendendole in giro, un po' prendendola seriamente, di arte contemporanea, delle differenze tra performance e teatro. È uno spettacolo secondo me molto divertente, anche abbastanza profondo, insomma, dove in superficie si ride di una finta Marina Abramovic, che poi sono io con una serie di video dove appunto divento Marina Strusovic, Marina Arkanovic, Marina Spassovic, qualunque cosa, con dei video in cui faccio improbabili performance di body art, dove mi sbatto per terra e faccio cose del genere. Quindi c'è una superficie assolutamente parodistica, diciamo, però per cercare di parlare di cose, insomma, dell'inafferrabilità, dei misteri dell'arte contemporanea. Per chi volesse saperne di più, sei in rete anche? Sono in rete, ma non con un sito, perché un sito l'ho avuto per un anno e naturalmente non essendo in grado, non avendo voglia di aggiornarlo, insomma, sì. non mi è scaduto subito. Sono in rete in un paio di siti, appunto, che sono poi i miei distributori, tra cui Dada Umpa. Però secondo me la cosa più efficace per capire dove sono e dove sto andando è Amicanti, mettere un mi piace alla mia pagina Facebook Andrea Cosentino, dove in questo momento c'è una fotografia appunto di me vestito da Marina Abramovic con un asciugacapelli sulla testa. Imperdibile. Quindi, mettere il mi piace su Andrea Cosentino è il modo migliore per sapere, insomma, se qualcuno fosse interessato dove sto performando, come si dice. Ok, allora Andrea, ti abbraccio e magari ti do appuntamento anche qui al Radio Teatro quando vuoi. Molto volentieri, appena faccio un nuovo spettacolo di teatro civile, come è nella mia tradizione, sarò sicuramente da voi. Ciao, a presto. Ciao Federico, un abbraccio. Ciao, ciao. Allora, eravamo rimasti in sospeso perché la linea era caduta la scorsa settimana con Saverio Raimondo. Ben ritrovato, caro. Ben ritrovati a voi, scusatemi, la mia linea è decaduta, d'altronde siamo in un periodo di decadenza anche in Senato, lo sapete, quindi alle volte le cose cadono. Effetto domino. Esattamente. Senti Saverio, allora torni di nuovo in scena, se non sbaglio mercoledì. Domani. Confermo, perché per tre mercoledì di fila, lo scorso mercoledì, domani e poi il prossimo ancora, sarò live al Cocktail Comedy Club dell'Oppio Caffè con tre show sempre diversi, nel senso che ogni mercoledì non mi ripeterò mai neanche una battuta sarà ripetuta e sarà sempre materiale nuovo, satira in senso anche più ampio del termine, non per forza battute sui titoli di giornali, stand-up comedy, quindi una comicità per adulti, diciamo, ecco, non per famiglie. Ecco, la stand-up comedy, ne parlavamo la scorsa settimana con Saverio Raimondo, con Simone Nebbia, rispetto a questa tradizione di provenienza anglosassone che da noi, insomma, non ha mai preso piede. Tu sei uno di quegli esponenti invece che la sta facendo conoscere soprattutto a Roma. Beh sì, sono un portatore sano di stand-up comedy, diciamo, che poi appunto è un genere tutto sommato molto molto facile per certi aspetti, almeno produttivi da fare, che basta un'asta, un microfono, un po' di luce, però è un atteggiamento, una scrittura comica, quella della stand-up comedy, che è molto estranea in effetti alla nostra tradizione comica, che invece si è sempre ritrovata di più nelle maschere, in qualche modo nella caricatura, eccetera. Personalmente invece appunto preferisco, comunque mi nego a questa tradizione anglosassone che è più diretta, più senza mascheramenti appunto, e invito, come dire, il pubblico a scoprirla, perché insomma, voglio dire, alla fine abbiamo importato tante cose dal mondo anglosassone, positive e negative, non vedo perché non la stand-up comedy, insomma. Senti, Lenny Bruce cosa rappresenta per te? Beh, stato sicuramente uno dei capofila, voglio dire, uno dei fondatori quasi della stand-up comedy, fra i primisti, mi ricordiamo Borzol, Woody Allen e appunto Lenny Bruce è stato proprio il primo a dare alla stand-up comedy quella vena satirica di denuncia, di spiazzamento, sicuramente una delle figure di riferimento, dopo di lui sono arrivati i Carlin, Nix, sicuramente, ma lui è stato un po' il primo a fare la stand-up comedy satirica. E quindi è sicuramente un riferimento aureo, è nel Pantheon, senz'altro. Saverio, ci regali una pillola? Come dire, di temi se ne tratteranno diversi, fra i quali anche temi tragici come quelli del lavoro, che come sapete è un tema che insomma travagliato, il mondo del lavoro in Italia sta subendo diverse trasformazioni e io ho notato che è in corso una vera e propria rivoluzione sessuale del lavoro, non so se ve ne siete accorti, infatti i giovani adesso, no, prima di impegnarsi in un lavoro serio e stabile, fanno le loro esperienze, no? Lavorano con persone diverse, anche dello stesso sesso, sperimentano il lavoro di gruppo e non si vergognano di praticare il lavoro manuale. L'importante è che il lavoro sia protetto e che siano consenzienti sia i dipendenti che i datori di lavoro. Per il resto tutto è concesso, no? Anche lavorare con gli animali. Il lavoro minorile no, è reato, quello è reato, però adesso con le liberalizzazioni è possibile lavorare in un'impresa familiare senza destare scandalo. Dopotutto l'hanno ammesso persino i sindacati, che non c'è cosa più divina che lavorare con la cucina, no? Nei colloqui di lavoro adesso si fanno domande del tipo: durante un impiego ha mai finto uno stipendio? Oppure qual è il posto più strano dove hai lavorato? Io per esempio una volta ho lavorato in un ascensore, ma conosco persone che hanno addirittura lavorato sopra una lavatrice o dentro un'utilitaria con i sedili reclinati, è quella che chiamano flessibilità. Adesso i sogni lavorativi, professionali degli italiani stanno cambiando. Per esempio prima gli italiani sognavano sempre il posto fisso, no? Lui sotto, lei sopra la scrivania. Adesso invece con le liberalizzazioni, con la flessibilità nel mercato del lavoro, sono cambiate anche le fantasie lavorative degli italiani. Per esempio adesso le donne sognano di lavorare con uno sconosciuto, magari lavoro nero, mentre invece gli uomini sognano di lavorare con più donne o meglio ancora di guardare due donne che lavorano al posto suo. Certo, i problemi non mancano, c'è da dire che il mercato, la libera del lavoro ha portato anche a delle forme di perversione, come persone che vanno in giro per strada fra la gente, si aprono l'impermeabile e mostrano il curriculum, però c'è anche da dire tra le varie cose che c'è un dato soprattutto che fotografa la situazione del lavoro in Italia oggi, cioè che un italiano su tre fa sesso sul posto di lavoro, probabilmente perché è eccitato dal fatto di avere un lavoro. Ecco, questo per dirne una. Grazie Saverio, allora ricordaci l'appuntamento. L'appuntamento è per domani sera al Cocktail Comedy Club dell'Oppio Caffè e invito il pubblico a presentarsi entro non oltre 10:30 perché poco dopo cominciamo e poi successivo ultimo appuntamento mercoledì prossimo il 18 dicembre sempre Cocktail Comedy Club dell'Oppio Caffè. Un abbraccio e a risentirci presto. Grazie, a presto, ciao. Ciao Saverio. Oh, va molto meglio, ma va molto meglio per tutti. Va molto meglio per tutti, allora. Ma che bella vita che facciamo. Facciamo guarda. Veramente la bella vita. Allora Simone, Antonio Rezza e Flavia Mastrella sono andati via, dovevano andare dal pediatra. Dall'estetista? No, dal pediatra. Ok. Poi ho sentito Saverio Raimondo che... ti ricordi la scorsa settimana era saltato il collegamento, gli ho fatto certo. Fare anche un pezzetto live in diretta per noi e poi ho sentito Andrea Cosentino di tre voci femminili che dovevo sentire, nessuna delle tre è raggiungibile, ci riprovo magari dopo di te parliamo degli appuntamenti di questa settimana Simone. Parliamone pure, certo, perché questa settimana è, diciamo, un po' scarica dal punto di vista di grandi progetti, no? Roma si sta via via avviando verso il deserto della cultura teatrale, l'avevamo già anticipato, vedi però come ne parlo con tanta energia, no? Stai migliorando tanto. Che bello, come sono contento, ma da gennaio a teatro praticamente ci andremo un po' col contagocce perché tranne qualche raro progetto all'Argentina, ma insomma quelli sono un po' così di normale amministrazione, con molte ombre e insomma quasi non potremmo dirlo, ma diciamolo, il Palladium quest'anno non farà stagione e ci rimane ben poco, ci rimangono i piccoli teatrini. Vabbè, insomma, ricominceremo dai piccoli teatri a vedere un po' quello che si muove, anche con le tante difficoltà che questo può ingenerare, insomma. Beh, non l'abbiamo mai abbandonati, io continuo, anzi frequento soprattutto quelli, per cui no ma io anche io continuo a farlo, però sai, tante cose continuano a muoversi in Italia, non vederle a Roma, nella città capitale, in una città culturalmente attiva per tanti anni, dove le cose si sono prodotte anche per molti anni, beh, insomma, comincia a diventare davvero un problema, eh? Sì. Al di là poi del fatto che i teatri ci sono e che possono comunque portare qualche cosa davanti agli occhi dello spettatore. Sì. Questo è un discorso parziale, certo. Ma comunque qualcosa c'è anche questa settimana, e andiamo a parlarne. Allora, direi che prima di tutto ti porto ad un festival che ci sarà questo fine settimana, un festival nuovo di primissima edizione, che è organizzato dalla nostra Chiara Crupi, Arti in Connessione, ed è lo spettacolo Fuori di sé, prima edizione del Festival delle Eccellenze nel Sociale. Sarà, udite udite, all'ospedale Forlanini di Roma. 3 giorni di spettacolo dal vivo, convegno, workshop, venerdì, sabato e domenica, dal 13 al 15 di dicembre. All'interno dell'ospedale. Per il programma, rimando a Teatro Critica perché è molto lungo, però insomma ci sarà l'orchestra di Piazza Vittorio, ci sarà il Wojciech del laboratorio Piero Gabrielli, ci saranno i Presi per Caso, i Ladri di Carrozzelle, insomma ci sarà veramente l'occasione per un buon fine settimana, per stare insieme, uniti diciamo da una urgenza sociale che è sempre più opportuno perseguire come linea esistenziale, non soltanto artistica. Poi vabbè, insomma, che ti dico di Antonio Rezza, lascia stare, ne avete parlato fino adesso, sì. Andiamo avanti, continua il circo all'Auditorium con questo festival EC, anch'esso alla prima edizione, nell'ambito di Natale all'Auditorium. Il circo El Grito presenta Drums and Circus venerdì, sabato e domenica. Domenica è anche, a dir la verità, una replica mattiniera alle ore 11 e una alle 18. Doppia replica tutti i giorni al tendone posto in via Norvegia, allo Chapiteau, dove ci sarà questo festival del circo contemporaneo, quindi diciamo sul Lungotevere. Poi, ancora, questa settimana l'altro festival, diciamo in contemporanea, sempre romano, eventi ingresso gratuito dalle parti del Centrale Preneste, quindi siamo al Pigneto, per attraversamenti multipli, 12 anni di spettacoli, performance e tanti contenuti portati dalla coppia di Margine Operativo, che Alessandra Ferraro e Paco Graziani, che questa edizione iniziano con il 12 dicembre, venerdì, Giulio Stasi con il suo Accidente Glorioso numero 1, e seguiranno i Red Reading di Bartolini Baronio con Siamo Solo Andata, qui si tratta diciamo del Red Reading numero 3 con quello dedicato a Henry De Luca, e ne abbiamo seguiti, no, giusto Federico? Eh sì, alcuni li abbiamo portati proprio in radio. Infatti. E mentre sabato 14 sarà la volta di due ospitate da fuori, per la compagnia Instabili Vaganti, che presenta uno spettacolo dedicato agli operai dell'Ilva di Taranto, quindi insomma io direi che è il caso di seguirlo, Tremita Contemporaneo Made in Ilva. A seguire, oltre alle performance di Margine Operativo con Puzzle numero 2, ci sarà 7-8 kg con Handplay. 7-8 kg è una compagnia di danza che insomma presenta delle cose molto interessanti, sarà sicuramente interessante da vedere. Poi ancora il 12, che è giovedì, allora forse diciamo che ho sbagliato io, perché sì, esatto, ho sbagliato, che bello, il 12 che è giovedì, ci sarà anche il debutto di uno spettacolo al Teatro Euteca di Roma. Siamo nel quartiere Cinecittà, siamo di fianco, anzi dentro direi all'Accademia di Cinecittà. Dal 12 al 22 di dicembre Federica Tatulli presenta L'Isola degli Schiavi, che questo testo di Marivaux, piuttosto noto, che Strehler ha portato nel 94 agli onori, diciamo, della gli onori della rappresentazione contemporanea, e che però risale al 1725, quindi un testo molto, molto antico, una commedia questa, che sarà in scena fino al 22 di dicembre al Teatro Euteca. Uno degli attori è stato qui in radio con uno spettacolo su Ilaria Alpi. Ah, ecco, bene, vedi, queste sì. Cose sono importanti da ricordare. Allora, torna anche l'Angelo Mai questa settimana con il progetto dedicato al Teatro Ragazzi, Giardino d'Inverno, con la direzione artistica di Fabrizio Pallara, Teatro delle Apparizioni. Dalle 11 alle 19 ci saranno degli interventi musicali, performativi e quant'altro all'Angelo Mai, domenica 15 dicembre, per tutta la giornata. Quindi portate i bambini, se non li avete fateli immediatamente e portateli all'Angelo Mai domenica, o rubateli agli angoli delle strade per andare all'Angelo Mai. No, scherzo, potete andare anche senza bambini. L'importante è che i bambini non vadano da soli, perché non hanno le assicurazioni. Ma comunque, Teatro Cometa Off, da questa sera fino al 15 di dicembre, pensa un po' anche il Cometa Off ogni tanto. Sì. Matteo 1914, che più di una sigla da cassaforte da scassinare, è uno spettacolo dedicato al tema della pedofilia nella Chiesa Cattolica, ma più che altro, come ci viene detto, diciamo, dalla scheda di Giovanni Franci e con la regia di Marianna Galloni, è un omaggio alla purezza che resiste ad ogni tentativo esterno di corruzione. Però è pure vero che è uno spettacolo in cui c'è Matteo, che è giovinetto, ha problemi con i genitori, incontra padre Vincenzo, che è un religioso di 40 anni con cui inizia un rapporto ambiguo. Ora, è vero che non è un'inchiesta sulla pedofilia all'interno della Chiesa Cattolica, però più o meno, insomma, cioè, qualcosa ci lascia pensare, ecco. Sì, direi. In qualche modo, insomma, possono dire quello che vogliono. Sempre in ambito religioso, mettiamola così, ma un po' più ironico, diciamo, c'è questo nuovo spettacolo non so se è così tanto nuovo, però è nuovo per noi perché non l'abbiamo mai visto, perlomeno io. Sala 1, dal 12 al 22 di dicembre, Rimetti a noi i nostri debiti, scritto e diretto da Mario Prosperi, con anche Mario Prosperi in scena, che è anche attore, soprattutto perché c'è un'attrice storica che si chiama Rossella Orr, che mi fa piacere ricordare qui, e sarà in scena in questo spettacolo, in cui, insomma, c'è un più che il rapporto con la fede e con la potenza religiosa, più con il potere di Equitalia, insomma. Quindi i debiti sono veramente i debiti veri e propri tra esattori e guardia di finanza. Pensa che Rossella Orr mi ha esaltato in uno dei primi film di Matteo Garrone, che è Estate Romana. Lì l'ho amata proprio. Pensa tu, io invece sono responsabile di un misfatto, perché qualche anno fa, ero un giovinetto proprio, andai a vedere La Voce Umana di Cocteau a Via Tiepolo, c'era lì il teatro, ti ricordi? Sì. E adesso non c'è più, come tanti teatri purtroppo a Roma. L'andai a vedere e fui molto sgradevole, diciamo, nella stroncatura di quello spettacolo, che in realtà anni dopo mi è tornato davvero come invece un'opera molto, molto più interessante di come l'avevo trattata io. Quindi, vedi, si fanno tanti errori, lo sto confessando a distanza di anni, insomma. Ma vabbè, andiamo avanti. Bando ai ricordi. E allora, poi andiamo anche questa settimana al Nuovo Cinema Palazzo. Sì, ci andiamo per sabato per Andrea Cosentino, è vero, come abbiamo ricordato. Eppure ci andiamo però anche per Intarir, che è questa ideazione di Muta Imago, che ha portato poi allo spettacolo Pictures from Gihan. Questo lavoro è nato all'interno di Wake Up, progetto del Teatro di Roma sulla Primavera Araba, e sarà in scena al Nuovo Cinema Palazzo 15 dicembre alle ore 20:30. Bene. Poi doppia calata nel nazismo, perché al Teatro Mille Lire da oggi fino a domenica c'è Eva Braun, l'altra metà del fuoco, la donna e l'amante che scoprì il male, scritto da Alessandro Valenti, ma in scena per la regia di Antea Magaldi. È uno spettacolo sul, in qualche modo sul doppio, perché Eva Braun è, diciamo, affiancata ad Antonia Pozzi, quindi due morti, morte suicide per amore entrambe. Però contestualmente in un altro teatro, che sarà il Teatro dei Conciatori tra poco, sì, il Teatro dei Conciatori sta arrivando, ecco qui La Disfatta, Gli ultimi giorni del bunker, da sempre da questa sera ma fino al 22 dicembre, un testo di Gianni Guardigli diretto da Francesco Branchetti, sugli ultimi giorni di Hitler e appunto di Eva Braun, che si suicida assieme a lui il 30 aprile del 45. Poi facciamo anche un respiro e andiamo all'orologio. Fai un respiro e poi corri. Allora andiamo all'orologio, dove sicuramente c'è da ricordare che c'è in scena ancora Il Gabbiano di Chekhov con la regia di Filippo Gili, e uno spettacolo dal titolo un po' strambo, però lo ricordiamo, 14-15 dicembre, pensavo fossi una sacra, invece sei una fiesta, vedi tu, alle volte. Tordinona, c'è una prima assoluta nazionale mondiale, mi è arrivata dall'email, Ferdinando Vaselli, che dirige questo Coccodrilli, dal romanzo di Youssef Raka, presentato da Quartieri dell'Arte, da oggi fino al 15 dicembre al Tordinona, okay. Dove nell'altra sala, la Pirandello, il 15 dicembre ci sarà anche Chiedilo a Yorick, che torna dopo essere stato già in scena al Tordinona nelle scorse settimane. Poi allo Studio 1 ci sarà la compagnia di teatro civile Anemofilia, che presenta questo spettacolo che è H2SO4, che è la sigla dell'acido solforico. Sì, l'acido solforico l'abbiamo trovato, perché io con la chimica c'entro poco, però l'abbiamo trovato dal 12 al 15 dicembre. Sì, sulle poi donne ancora sfregiate dall'acido, diciamolo, insomma. Sì, ecco, più o meno il tema è questo. Il Teatro Studio 1 si sta un po' attestando non sugli sfregiamenti d'acido, però su spettacoli, insomma, da seguire, che sviluppano un certo interesse. In queste ultime settimane sono andato a vederne un paio, quindi voglio dire, insomma, anch'io ci vado nei piccoli teatrini, che siamo addirittura a Torpignattara, che insomma, non è proprio un luogo teatralissimo, ecco. Andiamo avanti e andiamo all'Argo, perché questa è la settimana giusta per andare all'Argo, ma un po' tutta a dire la verità, perché se sono rimasti alcuni spettacoli, spettacoli a Roma, li fanno all'Argo, all'Orologio, al Tordinona, non sono molti i teatri, poi realmente. In questa settimana, 12 e 13 dicembre, doppio appuntamento, 12 e 13 dicembre, Non sentirei male, di e con Elena Bucci, 14 e 15, Ella, di Herbert Achtenbusch, con Marco Sgrosso, ossia entrambi Le Belle Bandiere, compagnia storica, il primo spettacolo dedicato a Eleonora Duse, quindi un'altra donna, e nel secondo spettacolo c'è un grande testo da parte di un grande autore e una performance, io non ho mai visto lo spettacolo, però credo che questo spettacolo sia sempre in travestì, perché insomma è un ibrido uomo-donna che parla. Io l'ho visto con altri attori, ma comunque sempre un monologo, e in questo caso sarà proprio Marco Sgrosso in scena per questo Ella. Poi c'è il Quarticciolo, dove questa sera ci sarà la lettura scenica di Santa Perpetua di Laila Ripoll, autrice spagnola, mentre poi con la regia di Veronica Cruciani, successivamente al Quarticciolo avremo un po' di cose che andiamo a rivedere subito, sì, immediatamente. Intanto c'è l'incontro spettacolo con Giulio Casale l'11 per Rassegne in Viaggio, e per il fine settimana avremo invece La Società, Tre atti di umana commedia di Musella Mazzarelli. Poi c'è il Teatro Torbella Monaca, dove questa sera ci sarà la nostra amica Katia Ippaso, cioè non proprio lei in scena, in realtà una sua drammaturgia, dal titolo Paranza, il miracolo, dal 10, lo spettacolo che sarà in scena a Roma per questa sera, domani o dopodomani, ma in tre spazi diversi, tutte e tre diciamo afferenti un po' alla Casa dei Teatri di Roma. Oggi al Torbella Monaca, domani sarà all'Elsa Morante, all'Eur, e il 12 dicembre sarà invece al Teatro del Lido di Ostia. Tra l'altro lei è una delle voci che avrei dovuto sentire ma che non dà segni di vita. Va bene. Va bene. Tu vuoi ricordare invece che c'era qualcosa alla Locanda Atlantide, Federico? Alla Locanda Atlantide, però un attimo che ci arrivo, perché era una delle persone, se ce la faccio la chiamo al telefono. Comunque, Lettere da Gaza, in scena alla Locanda Atlantide, a seguire dibattito con la delegazione che si recherà a Gaza dal 26 dicembre al 5 gennaio, portando aiuti all'ospedale Al-Avda. Lei è Sara Picardo. In scena ci saranno Paola Toscano e Marco Giannini. Scrive e dirige Sara Picardo, per l'appunto. Benissimo. Okay. Allora andiamo avanti. Ti dico un po', andiamo in chiusura, direi, perché mi piace poter ricordare una cosa che ci sarà invece dopo il fine settimana, a dir la verità, che è lunedì, un progetto speciale particolare da parte di una compagnia arcinota e che ha 30 anni di carriera, Enzo Cosimi, quindi danza, siamo nel campo della danza, My Day, May Day, il naufragio come condizione del contemporaneo. Enzo Cosimi e Maria Paola Zedda, è un ingresso libero e sarà al Teatro Argentina lunedì 16 dalle ore 18 in poi. Assolutamente evento da non perdere. Per chi non ha mai visto Enzo Cosimi, c'è l'opportunità in rete di vedere un video dell'ultimo spettacolo Welcome to My World, che è stato, se non sbaglio, a Roma Europa, credo al Palladium, adesso non ricordo bene il luogo, però ecco, sarà un'abitazione del Teatro Argentina, di diversi luoghi da parte di Enzo Cosimi, quindi una cosa di sicuro interesse. Mi fa quindi piacere ricordarlo, e detto questo io direi che posso salutare. Benissimo. Quanti, Federico, prima saluto te, poi saluto te. E quindi me ne torno fuori dalla comunicazione. Benissimo, t'abbraccio e ci si vede in giro. A presto, ciao a tutti. Ciao ciao. Siamo riusciti a contattarla, Federica Marchettini, per Signore Rinette, Teatro Tor di Nona, fino al 15 dicembre. Intanto ben ritrovata, Fede. Ciao, anche a te, ben ritrovata, finalmente. Oh, finalmente. Ci si insegue spesso. Allora, raccontaci un po' di questo Signorinette. Allora, sta andando molto bene, siamo alla seconda settimana, come dicevi è in scena fino a domenica prossima, alle 21 durante i giorni feriali e alle 18 la domenica. È uno spettacolo adatto a tutti, perché per le donne ma anche per gli uomini sensibili, noi diciamo spesso, e ricostruisce in maniera, come dire, ironica ma allo stesso tempo molto storica quello che è stato il grandissimo lavoro di tutte le donne che hanno partecipato alla Costituzione, ed è stato per noi un percorso entusiasmante, veramente incredibile, perché più andiamo avanti e più ci rendiamo conto di quanto veramente tanto si può fare insieme, si può fare bene, veramente un momento storico questo nostro, terribile, ma allo stesso tempo che ci sprona a migliorarci. Mm-hmm. Aver conosciuto queste signore, sono delle eroine, Fede, sono delle donne incredibili veramente. Mm-hmm. Quindi noi invitiamo tutti quanti a venire a conoscere. Il lavoro è stato fatto, è ancora un work in progress e va avanti comunque con ricerche, è stato fatto tramite articoli di giornali, tramite canzoni d'epoca. La ricostruzione è allo stesso tempo, appunto, dicevo, storica, ma allo stesso tempo anche molto leggera, il titolo proprio dice questo, sì, Signorinette, sì. Che è un appellativo che molto spesso si usava negli anni 40-50 per parlare delle donne, sì. E fa un po' il vezzo a questo modo, appunto, di vedere queste donne, che in realtà sono state delle donne incredibili. In sala ci sta Tiziana Varista, oggi è anche il suo compleanno, Carmen Giardina, e Anna Maria L'Oliva, e la regia di Nuzio Siano. Bene, io avevo avuto modo di vederlo al Teatro Colosseo, e a questo punto vi chiedo se avete intenzione di registrarlo, magari poi c'è la possibilità poi, certo, di ritrasmetterlo in radio. Noi veniamo assolutamente con grande piacere da te, lo sai. Siamo assolutamente pronte. Ma anche se non siete nella disponibilità di venire, insomma, basterebbe una registrazione, quindi pensateci. Certo, assolutamente sì, va benissimo, okay. Va benissimo. Allora io ti abbraccio e un saluto. Grazie anche alle altre, a Nuccio Siano, e a risentirci presto. A prestissimo, un abbraccio a voi. Ciao. Oh, a questo punto stavo provando con Katia Ippaso, che però è irraggiungibile. Idem Sara Picardo, ma degli spettacoli ve ne abbiamo parlato con Simone. A questo punto non mi resta che salutarvi. L'appuntamento con il radioteatro è per martedì prossimo, sempre dalle 14 alle 16. I riferimenti li trovate sia sul sito internet della radio, ondarossa.info, la voce trasmissioni radioteatro, sia su, dove tra l'altro c'è in fondo alla pagina l'archivio in podcast, dove trovate suddivise per anno le registrazioni degli spettacoli e delle letture andate in onda fino a questo momento. Poi c'è la pagina Facebook del radioteatro e l'indirizzo di posta elettronica per comunicare con noi, visionari@ondarossa.info.